Terzo anello ad alta voce, Lord Jim di Joseph Conrad. Comunque stessero le cose, il sonno di Jim fu disturbato dalla visione di un cielo di ottone in cui risuonava una grande voce che lo pregava di svegliarsi, con un tono così forte che, nonostante la sua disperata determinazione di continuare a dormire, si svegliò veramente. Il bagliore di una rossa fiamma che crepitava a mezz'aria gli ferì gli occhi. Spire di fumo nero e denso erano avvolte intorno alla testa di un'apparizione, una creatura irreale tutta vestita di bianco, con un viso severo, teso, ansioso. Dopo circa un secondo, riconobbe la ragazza. Teneva una torcia di Dammar con il braccio teso verso l'alto e ripeteva continuamente come un ritornello ossessivo: «Alzati! Alzati! Alzati!» Scattò in piedi. Ella gli mise subito in mano una pistola, la sua, che egli teneva appesa ad un chiodo, ma questa volta era carica. L'afferrò in silenzio, confuso, socchiudendo gli occhi davanti alla luce. Si chiese che cosa avrebbe potuto fare per lei. Ella gli domandò a voce rapida e bassissima: «Puoi affrontare 4 uomini con questa?» Nel narrare questo particolare rideva, perché aveva risposto prontamente con gentilezza a quella richiesta. Voleva fare bella figura con lei. «Certo, naturalmente, certo. Sono al tuo servizio.» Non era del tutto sveglio, ma aveva ben presente il dovere di essere molto cortese in quelle circostanze straordinarie, di mostrarle la sua prontezza devota e senza dubbi. La fanciulla lasciò la stanza ed egli la seguì. Prima di scendere i pochi gradini, la ragazza girò il viso e disse rapida: «Ti dovevano aggredire mentre dormivi.» Jim mi disse di aver subito provato la sensazione di essere stato ingannato. Era la solita vecchia storia. Era stanco di quegli attentati alla sua vita. Ne aveva abbastanza di quei continui allarmi, non ne poteva più. Mi assicurò di provare una grande rabbia per quella ragazza che lo stava ingannando. L'aveva seguita pensando che fosse lei ad avere bisogno del suo aiuto, e ora aveva quasi voglia di girare i tacchi e di tornare indietro, pieno di disgusto. «Sa», osservò con aria meditabonda, «credo di non essere stato me stesso per diverse settimane in quel periodo.» «Oh sì, eppure lo era sempre.» Non potei fare a meno di rispondergli. Ma lei camminava svelta ed egli la seguì nel cortile. «Ricordate che ciò che vi sto raccontando in questo momento è una storia d'amore.» Quella piacevole notte sembrava soffiare su di loro una dolce carezza. La fiamma della torcia sventolava di tanto in tanto come una bandiera al vento, e per un po' questo fu l'unico suono che percepirono. «Sono in attesa nel magazzino», bisbigliò la fanciulla. «Aspettano il segnale.» «Chi glielo deve dare?» chiese Jim. Ella scosse la torcia, che bruciò più forte dopo una pioggia di scintille. «Ma tu dormivi così inquieto», proseguì a bassa voce. «Ti vegliavo nel sonno.» «Tu!» esclamò lui allungando il collo per guardarsi in giro. «Pensi che l'abbia fatto solo questa notte?» rispose lei con una sorta di disperata indignazione. Se gli emissari di Sheriff Ali avessero avuto, come osservò Jim, un briciolo di fegato, proprio in quel momento avrebbero dovuto attaccare. Il cuore gli batteva come uno stantuffo, non per la paura, ma gli parve di sentire un fruscio nell'erba e si allontanò prudentemente dal fascio di luce. Qualcosa di scuro, che non poté vedere bene, si immerse rapidamente nel buio. Chiamò ad alta voce: «Cornelius! Oh, Cornelius!» Seguì un profondo silenzio. Ebbe l'impressione che la sua voce non arrivasse più in là di pochi metri. La ragazza fu di nuovo al suo fianco. «Fuggi!» gli disse. Thank you. Fuggi! Ripeté la ragazza con voce eccitata. Ora hanno paura, la luce, le voci. Adesso sanno che sei sveglio. Sanno che sei grande, forte, coraggioso. Se sono tutto questo, cominciò lui, ma ella lo interruppe. Sì, stanotte, e domani notte, quella successiva e tutte le altre. E potrò continuare a vegliare. Il suo respiro rotto da un singhiozzo lo toccò più di tutte quelle parole. E sebbene ella continuasse a sussurrargli, vada Doramin, con un'insistenza febbrile, egli si rese conto che non c'era rifugio da quella solitudine che moltiplicava tutti i suoi pericoli, se non in lei. Pensai, mi disse, che se mi fossi allontanato da lei per me sarebbe stata la fine. Ma dal momento che non potevano rimanere per sempre in mezzo al cortile, si decise ad andare a dare un'occhiata nel magazzino. Senza neppure accennare una protesta, lasciò che lei lo seguisse come se fossero stati uniti indissolubilmente. «Sono coraggioso, vero?» borbottò fra i denti. Ella lo prese per un braccio. «Aspetta fino a quando non senti la mia voce», gli disse. E sparì dietro l'angolo, correndo con passo leggero, con la torcia in mano. «Ora, spingi!» spinse con violenza. La porta sbatté, dopo uno stridulo cigolio, rivelando i suoi occhi sbigottiti l'interno del locale, che con quel suo basso soffitto sembrava un carcere, ed era illuminato da una luce scintillante e sinistra. Dall'esterno ella aveva infilato la fiamma fra le sbarre della finestra. Egli vide il suo braccio nudo e rotondo che reggeva la torcia, rigido e fermo come un sostegno di ferro. Solo delle vecchie stuoie stracciate, ammassate in una specie di cono, ingombravano un angolo lontano fin quasi al soffitto. «Non c'è nessuno qui!» urlò Jim con voce sprezzante, ma la risata offesa ed esasperata che stava per scoppiare gli si strozzò in gola. Nel momento esatto in cui volgeva, aveva incontrato un paio d'occhi che lo fissavano dal mucchio delle stuoie. Vide il guizzo bianco delle pupille. «Esci!» gridò furiosamente, un po' incredulo. E una faccia scura, una testa senza corpo, prese forma nella massa di stracci. Una testa stranamente staccata che lo fissava con cupo cipiglio. Allora tutto il mucchio si mosse, e con un debole grugnito ne emerse rapidamente un uomo che balzò verso Jim. E mentre dietro di lui le stuoie parvero mettersi a saltare e volare, il braccio destro si alzò con il gomito piegato e la fosca lama di un Criss spuntò dal pugno proteso, poco al di sopra della testa. Il panno, che gli avvolgeva strettamente i fianchi, spiccava di un bianco abbagliante sul bronzo della pelle. Il suo corpo nudo brillava come bagnato. Jim notò tutto questo. Mi disse che in quel momento provò un senso di indicibile sollievo, l'esaltazione della vendetta. Deliberatamente aggiunse e ritardò il colpo di pistola. Lo ritardò di un decimo di secondo, di tre balzi dell'alto, una pausa interminabile. Lo ritardò per il piacere di dirsi: «Questo è un uomo morto». Ne aveva l'assoluta certezza. Lo fece avanzare perché non importava, era un uomo morto in ogni caso. Notò le pupille dilatate, gli occhi spalancati, la fissa e intensa immobilità della faccia, quindi sparò. In quello spazio ristretto l'esplosione fu assordante. Indietreggiò di un passo, vide l'uomo alzare di scatto la testa, gettare avanti le braccia e lasciar cadere il Criss. In seguito vide che l'aveva centrato alla bocca, verso l'alto, con una pallottola che gli uscì dalla nuca. Lanciato nell'attacco, l'uomo proseguì ancora per qualche passo, con il viso sfigurato e le mani tese a tentoni, come se fosse stato accecato, e crollò battendo la fronte con spaventosa violenza, a poca distanza dai piedi nudi di Jim. Avanzò risoluto, scavalcando il cadavere, e puntò la pistola contro un'altra figura nuda che si delineò vagamente all'estremità opposta. Mentre stava per premere il grilletto, l'uomo gettò via con forza una lancia corta e pesante e si accucciò con aria sottomessa, piegandosi sulle cosce con la schiena alla parete e le mani allacciate fra le gambe. «Vuoi salva la vita?» chiese Jim. L'altro rimase silenzioso. «Quanti ce ne sono ancora?» ripeté Jim. «Altri due, Tuan», disse pianissimo l'uomo, fissando con uno sguardo affascinato la bocca dell'arma. A questo punto gli altri due strisciarono fuori dalle stuoie, con le mani vuote, ostentatamente sollevate. Thank you. Dopo essersi messo in posizione favorevole, Jim li fece uscire dalla porta tutti insieme. Nel frattempo la torcia era rimasta in posizione verticale, stretta da una piccola mano che non tremava. I tre li obbedirono in perfetto silenzio, muovendosi automaticamente. Le dispose in riga e ordinò: «Mettetevi sotto braccio!» Obbedirono. «Il primo che sfila un braccio gira la testa è un uomo morto», disse. Partirono tutti in gruppo, muovendosi rigidamente. Egli li seguì, e al suo fianco la ragazza con la veste bianca a strascico e i capelli neri fino alla vita portava il lume. La sua figura eretta e ondeggiante sembrava scivolare senza toccare terra. L'unico suono era il serico fruscio dei lunghi fili d'erba. «Alta!» esclamò Jim. La sponda del fiume era ripida, ne saliva una grande frescura, e la luce cadeva sul bordo dell'acqua liscia e scura, su cui apparivano bollicine silenziose. A destra e a sinistra la fila delle case correva continua sotto il nitido profilo dei tetti. «Portate i miei saluti a Sharif Ali, finché non andrò a farglieli personalmente», disse Jim. Nessuna delle tre teste fece il minimo movimento. «Saltate!» tuonò Jim. I tre tonfi si fusero in un solo tonfo con alti spruzzi, e tre nere teste andarono su e giù con movimenti convulsi per poi scomparire. Ma i rantoli e gli sbuffi proseguirono, diventando a poco sempre più fievoli, perché rimanevano sott'acqua più che potevano per paura di qualche sparo. Jim si volse alla fanciulla, che aveva osservato in silenzio e con grande attenzione. Improvvisamente si era sentito il cuore troppo grosso, come se gli premesse il petto e lo soffocasse in gola. Fu forse questo a farlo tacere per parecchio tempo, finché la ragazza, che ricambiava il suo sguardo, gettò nel fiume con un ampio gesto del braccio la torcia accesa. La fiamma rossastra e ardente si inabissò con un forte sibilo dopo aver tracciato un ampio arco nel buio della notte, e su di loro scese liberamente la luce calma e dolce delle stelle. Quindi si alzò e cominciò a camminare leggermente agitato. Io l'amo molto più di quanto possa dire. Naturalmente sono cose che non si possono dire. Si considerano in un altro modo le proprie azioni quando si arriva a capire, quando ci fanno capire ogni giorno che la propria esistenza è necessaria, assolutamente necessaria, capisce, a un'altra persona. E io ci sono arrivato, è meraviglioso. Ma provi solo a pensare che cos'è stata la sua vita. È stata veramente spaventosa, non le pare? E se ricordo come l'ho trovata qui, come quando si va a fare una passeggiata in un posto e si vede qualcuno che sta annegando in un angolo buio e solitario. Per Giove non c'è tempo da perdere. Bene, è anche una questione di fiducia. Credo di essere all'altezza. Qualche giorno dopo, in un'altra occasione, mi disse: «Sono qui appena da 2 anni, ma adesso, parola mia, non potrei pensare di vivere altrove. Il pensiero stesso del mondo esterno è sufficiente a gettarmi nel terrore. Perché, capisce?» Continuò con gli occhi abbassati, a seguire la propria scarpa che spianava un pezzetto di fango secco. Stavamo passeggiando sulla riva del fiume. «Perché non ho dimenticato il motivo per cui sono venuto qui. Non ancora.» Evitai di guardarlo, ma penso di aver sentito un breve sospiro. Facemmo ancora qualche passo in silenzio. «In tutta coscienza», riprese, «se è possibile dimenticare un fatto del genere, penso di avere il diritto di rimuoverlo dalla mente. Chieda a chiunque qui», disse con voce mutata. «Non è strano», proseguì con tono dolce, quasi struggente, «che tutte queste persone che per me farebbero qualunque cosa non riescano a capire il mio dramma. No, se lei non credesse a ciò che dico, non potrei mai chiamarli a confermare le mie parole. È una cosa che non riesco ad accettare. Sono uno stupido, vero? Ma cos'altro voglio? Se si chiedesse loro chi è coraggioso, chi è retto, chi è giusto, chi è la persona a cui affiderebbero la vita, ebbene risponderebbero Tuan Jim. E tuttavia non potranno mai sapere. Non sapranno mai la verità.» Thank you. per Giove, cominciò lui bruscamente. Ci sono giorni in cui siamo troppo assurdi per fare qualsiasi cosa. E so che a lei posso dire ciò che voglio. Ne parlo come di una faccenda finita, di quel maledetto imbroglio che mi rimane sempre nel fondo della memoria. Dimenticare. Che mi impicchino se ci riesco. Posso pensarci tranquillamente. Dopotutto che cosa aveva dimostrato? Nulla. Forse lei non sarà d'accordo. Mormorai una protesta. Non importa, disse. Sono soddisfatto. Quasi. Mi basta guardare in faccia il primo che arriva per riconquistare tutta la mia fiducia. Non è possibile far capire loro che cosa avviene dentro di me. E perché mai? Dopotutto qui non me la sono cavata poi così male. Mio caro ragazzo, esclamai. Per loro lei sarà sempre un mistero insolubile. Dopo di ciò, restammo in silenzio. Un mistero, ripeté prima di alzare lo sguardo. Ebbene, che io rimanga qui per sempre. Non appena Jim ebbe iniziato con Tambi Tam alle calcagna e il suo giro serale, io tornai verso casa da solo e mi trovai inaspettatamente di fronte alla ragazza che evidentemente aspettava questa opportunità. Mi è difficile dirvi che cosa esattamente volesse sapere da me. Ovviamente cose semplicissime, tanto semplici quanto impossibili, come per esempio l'esatta descrizione di una nuvola. Voleva un'assicurazione, una dichiarazione, una promessa, una spiegazione. Non saprei come chiamarla, è una cosa che non ha nome. Era buio sotto la sporgenza del tetto. Riuscivo a scorgere solo le linee fluenti della sua veste, il piccolo ovale pallido del suo viso con il riflesso bianco dei denti e, rivolte verso di me, le grandi e cupe orbite degli occhi, dove sembrava essere un lieve movimento, quale si può percepire tuffando lo sguardo in un pozzo profondissimo. «Che cosa si agita laggiù?» ti chiedi. «È un mostro cieco o un bagliore perduto dell'universo?» Mi venne in mente, non ridete, che fatte le debite proporzioni ella fosse nella sua fanciullesca ignoranza più impenetrabile della sfinge che proponeva ai viandanti infantili indovinelli. Era stata portata a Patusar ancora in fasce. Lì era cresciuta, senza vedere niente, senza conoscere niente, senza concepire alcunché di diverso. Mi chiedo se potessi almeno immaginare l'esistenza di altre realtà, quali idee potesse essersi fatta del mondo esterno, non riesco a immaginarlo. Tutto quello che di esso conosceva erano una donna tradita e un sinistro gaglioffo. Veniva da lì anche il suo innamorato, con tutte le sue irresistibili seduzioni. Ma che sarebbe stato di lei se fosse tornato a queste inconcepibili regioni che sembravano sempre richiamare i propri figli? Con le lacrime agli occhi, la madre l'aveva messa in guardia da questo prima di morire. Aveva stretto il mio braccio con una presa ferma e non appena mi ero arrestato aveva ritirato la mano in gran fretta. Era audace e ritrosa. Non temeva nulla, ma era bloccata dalla profonda incertezza e dalla sua condizione di estranea, una persona coraggiosa che brancolava al buio. Io appartenevo a questo ignoto che avrebbe potuto rivendicare i suoi diritti su Jim in qualunque momento. Ero, come dire, nel segreto della sua natura e delle sue intenzioni, il confidente di un mistero minaccioso, che forse mi conferiva i medesimi poteri. Credo mi pensasse capace di strapparle Jim dalle braccia con una sola parola. Sono perfettamente convinto che patì sofferenze atroci durante le mie lunghe conversazioni con lui, in un'angoscia autentica e intollerabile che avrebbe potuto spingerla a tramare di uccidermi se la ferocia dell'anima sua fosse stata pari alla tremenda situazione che si era raffigurata. Questa è la mia impressione ed è tutto quello che posso offrirvi. Essa si fece strada a poco nella mia mente e a mano che mi appariva sempre più chiara venivo lentamente sopraffatto da uno stupore incredulo.